Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica, rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura, di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia a tutti voi l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Una buona sera a tutti voi all'ascolto da parte di Giulio Caperdoni. E così tutte le sere, fra le 19 e le 20, sulle frequenze di Rock FM. È l'inizio della settimana numero 20 di questa stagione, che è poi la 14ª, che ci vede tutti assieme. Tutti assieme da qualche anno anche non solo sulle frequenze terrestri, ma anche in streaming e da qualche anno in meno ancora anche in podcasting. Giulio Caperdoni, raggiungibile all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com. Lo svedese. Negli anni della guerra, quando ero ancora alle elementari, questo era un nome magico nel nostro quartiere di Newark. Anche per gli adulti della generazione successiva a quella del vecchio ghetto cittadino di Prince Street, che non erano ancora così perfettamente americanizzati da restare a bocca aperta davanti alla bravura di un atleta del liceo. Era magico il nome, come l'eccezionalità del viso. Dei pochi studenti ebrei di pelle chiara presenti nel nostro liceo pubblico prevalentemente ebraico, nessuno aveva nulla che somigliasse anche lontanamente alla mascella quadrata e all'inerte maschera vichinga di questo biondino dagli occhi celesti spuntato nella nostra tribù con il nome di Seymour Irving Levov. Questo era l'incipit di Pastorale Americana di Philip Roth. We'll be right back. Every inch of me shall perish. Every inch but one. An inch. It is small and it is fragile, and it is the only thing in the world worth having. We must never lose it or give it away. We must never let them take it from us. We'll be right back. Questa era Blackwater's Blow, ovvero sia un estratto dal nuovo album di Silver Mount Zion Memorial Orchestra and Tralala Band, di cui ho abbondantemente parlato settimana scorsa. Eclettica, che si era invece aperta con i White Rabbits e la loro The Plot, e prosegue con un'anticipazione di un disco che uscirà nel mese di maggio e che è il nuovo del quartetto tedesco The Nottwist. Certo che ne hanno fatta di strada da quando si sono formati come hardcore punk band a Monaco di Baviera. Ne hanno fatta di strada e hanno cambiato molto lungo la strada, con piccoli cambiamenti di volta in volta fino ad arrivare al loro attuale sound. E durante tutta questa loro strada abbiamo diviso di volta in volta il percorso, anche qua in Eclettica, comprese le prove collaterali come quella dei 13 and God. Ora, come vi dicevo, siamo ad un nuovo album, The Devil, You and Me, dal quale ho la possibilità di anticipare Good Lies. Let's just imitate the real until we find a better one. Remember the good lies when, remember the good lies when. We'll be right back. Cominciò stranamente. Ma poteva forse esserci un altro inizio? Si dice che tutte le cose sotto il sole cominciano stranamente e finiscono stranamente e sono strane. Una rosa perfetta è strana, proprio come una rosa imperfetta e come la rosa di normalissimo colore e gradevolezza che cresce nel giardino del vicino. Conosco quella prospettiva da cui ogni cosa appare terrificante e misteriosa. Rifletti sull'eternità, considera, se ne sei capace, l'oblio, e tutto diventa un portento. Eppure, in assoluta umiltà, io dico che certe cose sono più straordinarie di altre e che io sono una di esse. Questo era l'incipit de Il seno di Philip Roth. Je m'appelle Madame Bateau. J'ai passé ma vie sur un rafio. Rafistolé et bricolé, moi j'y suis né. Durant des années, je ne l'ai pas quitté. Jusqu'à un matin, le dernier 17 janvier, je me suis sentie vieille, grisée par les années. Alors j'ai décidé qu'il était temps de mettre les pieds sur terre. Madame Bateau a décidé de ne pas finir sa vie en mer. Madame Bateau, voilà donc pourquoi j'ai débarqué à Paris. La scène était calme, je repensais à la mer et je suis descendu sur terre. Mais voilà que sous mes pieds, Paris s'est mise à tanguer. Et moi j'ai commencé à marcher, me balançant sur les quais. Madame Bateau est enlacée dans une danse avec la vie, avec Paris. Madame Bateau, glisse dans la ville comme sur une vague. Madame Bateau, j'ai marché des jours durant, suivant les courants de mes vagues à l'âme, et je me balançais dans Paris qui me regardait. Mais un beau jour, j'ai arrêté de tanguer. J'ai souffert du mal de terre, alors je suis entré dans un bar. Madame Bateau a commencé à boire. Elle est devenue accro au whisky. Madame Bateau, Madame Bateau a commencé à tanguer. Prima parte di Eclettica che si chiude all'insegna dell'Italia. Infatti ci siamo appena ascoltati i Grimoon da Mestre con Madame Bateau, canzone che apre il loro ultimo album. Grimoon che fra l'altro sono passati da myspace.com/eclettica ed hanno lasciato un segno della loro contentezza di essere nelle playlist di Eclettica, commentando appunto quella dell'ultima settimana o quella della settimana prima ancora, ora non ricordo. E Italia che chiude anche questa prima parte di trasmissione. Infatti è il nuovo dei Damien, che poi hanno il vezzo dell'asterisco, come potrete controllare anche in playlist, trio pesarese che arriva dopo una serie di autoproduzioni dal 2001 ad oggi, da quando si sono formati, e che ora finalmente escono con il loro primo disco ufficiale, pubblicato per la precisione il 10 di marzo da Suicide. Mart Art è il titolo dell'album, dal quale vado ad estrarre Bunbury.